Nella vita uno ha lavorato tanto, come io stesso sono quasi arrivato, però io continuo, perché fin quando le forze mie ce la fanno io lo faccio. Quindi poi andrò molto più lento, andrò più lento, poi alla fine ti dico, beh, non me lo posso più, non ne posso più non già. Quindi. Di Artevalle che stavi parlando, sono moderato, non è via Capodoro. Quelli lì erano i figli, no, io Malli è un attimale, era un uomo con i capelli grigi e gli occhi chiari, una persona in gamba, molto in gamba, gentile veramente, un bravissimo elettricista, e abitava esattamente in via Frumenaggia, da quelle parti lì, dai, a Monte Rosello Medio abitava, e siccome era uno che prendeva i lavori di questa ditta, la Fiorentina, che era un negozio di vendita di materiali elettrici, elettrodomestici, lampadari e tutte queste cose qua. E allora, siccome lui non aveva l'aiutante, il principale mandava a me, c'era lui in cantiere, mandava a me. E io ho imparato da lui, quando ancora c'era il tubo Bergman, che tu magari non l'hai nemmeno conosciuto, il tubo Bergman, che c'era una pinza per fare le curve, a ogni stretta c'era una piccola piegatura del tubo, era un tubo in lanierino con dentro il vestito in cartone catramato, una cosa del genere, per non sfidarsi i figli, no, perché se no avrei chiamato un patatrac che avrebbe fatto. E ha incominciato con quel, poi è venuto fuori il PVC e si facevano le curve a mano nella caldarella, facevi il fuoco, la caldarella in cantiere e facevi le curve a mano. Oggi invece il mestiere è facilitato perché trovi tutto, qualsiasi cosa, anche tutti gli utilizzatori, oggi da capi tutto indistintamente, i relè, i salvavita, gli interruttori generali, tutto a capi, a differenza di prima che non era così, capito? Per cui oggi è più facile il mestiere, oggi c'è il corrugato, ce ne sono le curve, c'è tutto, c'è il tubo rigido, c'è tutto indistintamente. Prima addirittura c'era il cordoncino e si facevano gli impianti esterni con gli isolatori di porcellana e poi c'era la vipla con i chiodini semi isolati, non so se te lo ricordi, dopo mi rispondi. Vai Claudio. Ehi, adesso faccio rispondere a Tonino. Nel frattempo stacco lo strumento qua, così poi mi dici se ho collegato tutto bene. Vai Tonino. Nel capo, sì, quelli isolatori di porcellana li ho conosciuti. E allora ci andava quel cavo elettrico antico che era intrecciato. Quando poi si usava la piattina, un altro casino, perché quello quando sbagliava metteva il chiodino e se poco a poco toccavi la fase prendevi la corrente, non apriva la buccia. Comunque quelle arte male stavo dicendo io, sì, c'aveva il laboratorio, il negozio dove vendeva roba elettrica di via Capodoro, che è una traversa di via Arborea, sono moderato. Sì. Vabbè dai, non voglio formalizzare su questi discorsi perché non vorrei che poi la gente si stufasse. Avanti Gianni. Ehi, vabbè, vecchi ricordi, dai. Adesso è tutto più facilitato, vendono già tutti i pezzi pronti, non te li devi costruire tu, eccetera, eccetera. Prima era diverso. Io mi ricordo anche i tubi che ti facevano in ottone, non in stagno, forse stagno. E poi quando si bucavano col saldatore venivano, saldavano a stagno e riparavano il buco. Allora per riparare un tubo devi sfasciare tutto, un casino. Io mi ricordo che a casa di mamma c'era una specie di lavandino, di lavello, però tutto fatto in pietra, bianca e grigia, che tu lì praticamente lavavi la roba, quello che fai la lavello adesso, e quello lì lo scarico era fatto esternamente andava verso il muro, e questo scarico qui una volta si era bucato, l'aveva saldato con stagno. Un'altra cosa solo volevo aggiungere, Giulio, penso che l'avrei conosciuto, perché, ma non penso, cioè, tempo fa no, dico è molto da poco, perché allora i tubi facciamo un impianto elettrico esterno, diciamo. Sì, ci sono le curve come dici tu, però se c'è un punto obbligato che tu devi fare una curva che non ci sta, devi fare tu la curva proprio. Adesso c'è una specie di molla grossa, entri dentro il tubo e piano piano pieghi il tubo e spendete fare la forma che vuoi tu. L'hai conosciuto quello strumento, sì? La voglia, figurati. Tu pensa che io l'ho fatto anche a casa mia con l'impianto, andando avanzata, perché all'interno tra le travi di legno eccetera, che ci ho messo quelle curve anche, no? Certo che l'ho conosciuto, tutto, tutto riconosco, con quella che mi sto usando anche adesso, mia anche stamattina ho piantato due scatole, siccome mi sono fatto una chiusura, io ho la casa più di vede, no? Mi sono fatto la chiusura perché mi saliva tutto su una strada, mi saliva ad esempio l'escaldamento, tanto per fare un esempio. Adesso mi chiudo qua e mi faccio la porta, e l'ho fatta proprio in questi giorni, mi preparo da poco, anche stamattina c'erano due quadri a casa che aveva fatto mia figlia, col paso eccetera, adesso che ti faccio le cornici, e proprio stamattina stavo facendo le cornici, e lo dopo disegno, ma ci ho fatto una vasca circolare qui a casa, e con quello mi sto arrangiando e sto facendo tutti questi lavori. Ho fatto, tu immaginati un gabinato, quando sali dalla scala a chiocciola, perché è una parte a giorno, una parte a chiocciola, la scala per salire in mansarda, no? Quando arrivi su, approdi direttamente ed era tutto aperto, non è che io ho fatto una chiamala muratura, tutta in legno, tutta rivestita in legno, con pedinato eccetera eccetera, e poi mi sono messo la porta, così almeno diventa indipendente a tutti gli effetti la mansarda da tutto il resto della casa, e me la sono fatta adesso, volevo risolvere i disegni. A dire la verità ancora devo mettere il vetro sulla porta, perché non ho fatto le bacchette ancora, vado, compro il vetro e faccio le bacchette, faccio il vetro e chiudo definitivamente, per dirti, no, sono così sempre travaglienti, io me le invento le cose, perché non so cosa serve a niente, nonostante i miei 79 anni, fra pochi giorni, me le invento da voi, non me le sto con le mani in mano, perché mi piace muovermi. Avanti Claudio. Ok, dimmi se è a posto, io che stavo staccando lo strumento. Sì, è a posto qua, tutto a posto, tutto come deve essere, tutto al 100%, va benissimo. Com'era prima? Vabbè, ok, il segnale è sempre uguale, 9-18? Sì, forse anche 19, va. Non è proprio centratissimo, è sul 20, ma non è proprio centratissimo sulla vignetta del 20, però siamo lì, dai, ci manca un cc, quando modo puoi addirittura le superi. Va bene, allora meglio di prima, dai. Ok, avanti Tony, riprende e fai girare. No, Gianni, non lo sento nessuno. Mi lui? Vai Gianni. Ehi, allora. Attenzione l'amico che fa ola, avanti, Italia, Nord e Sardegna, avanti. E boh, insomma c'è anche il canale di Accinti adesso. Cappa, perché so che un altro, tanto per cambiare. Boh, comunque. Te dico una breve veloce, Giulio, cosa mi è successo a me all'Istituto Industriale di Sassari. Niente, sono andato in questa stanza che mi ha chiamato il professore, bravo, bravo. Ho fatto, ma di bravo, ti spiego perché. Mi si è bruciato un solvente differenziale. E il magneto tipo che c'era a fianco, che era, siamo 16 ampere. Dice, me lo devi mettere più alto, ma io l'impianto non glielo posso mettere lì, perché l'impianto è stato fatto qua in base a quello che lì ha attaccato il computer eccetera eccetera, quindi automaticamente non posso mettere da 16 a 32 ampere, ma stiamo scherzando, perché allora dovrei cambiare i conduttori. Qui era abbinato per 10 computer e ora ne vedo 30, quindi se lì fa la legge degli ohm è molto facile, guarda quanti watt c'è ogni computer, lo moltiplichi per 30 e ottieni, fai un'ipotesi, 20.000 watt diviso 220 e ottieni l'amperaggio che devi mettere sulla vite differenziale. Questo è un piccolo esempio che l'ho fatto, è rimasto a bocca aperta, cioè purtroppo queste cose bisogna impararle, perché se no è inutile, io mi devo costruire un impianto qua, so che ci devo mettere tanta attrezzatura, meno regge, allora mi faccio questo appunto qua. Avanti Giulio. Ok, non ti meravigliare, guarda, dei tecnici, perché te ne posso raccontare una sfilza io di questi particolari, mi tanto per dirtene uno, la Aroni trasportatore, l'avrei sicuramente sentito tante volte, no? Aroni, l'autotrasportatore. sembra che si chiamasse di nome, aveva una Mazda sopra dove c'era Smeraldo, non Smeraldo, il Viale Trento, dai, come si chiama lì, quel cinema lì, l'Ariston, aveva una Mazda che poi gli avevo arredato, gli avevo tutto il legno, eccetera, eccetera, no? E c'era l'architetto che gli faceva la progettazione di quello che voleva fare, veniva da me, mi dava il disegno, io glielo facevo, glielo portavo, glielo piazzavo, no? Un bel giorno, dopo che era finito tutto il lavoro, me ne viene questo architetto e mi porta una lampadina, ascoltami bene, mi dice Tony, una lampadina di quelle a cipolla, me ne porta, mi fa, mi deve fare dei supporti per mettere questa lampadina, dentro ci va il portalampade, così l'elettricista dice ci mette il portalampade e lei mi deve fare esattamente l'asola come quella della lampadina, in modo che quando avvita arriva aderente e basta. Ah, te va bene, fatto. Guardi che così mi sono permesso io l'architetto, ho convinto di sapere che cosa. Guardi che così non va bene l'architetto, perché se la lampadina si deve me la mette in aderenza al legno, una volta che scalda si brucia il legno e si incendia già la casa, uno, numero uno. Lei non si preoccupi, faccia come le sto dicendo, va bene, non mi preoccupo, no, tanto non è a casa mia che mi ha messo quello. Prendo e gli faccio il lavoro, glielo porto e glielo piazzo. L'elettricista buono il coso, come si dice, il portalampade, fa l'impianto, tutto quanto, avvita la lampadina e gli lascia la luce accesa, se ne va, a un certo momento c'era la domestica lì in questa casa e ha visto questo fumo, è salita su e subito si è allarmata, vedete, no, cosa incendia di tutto. Prende il telefono al signor Alfredo, cioè il proprietario della casa, signor Aloni. Io in quel periodo avevo il telefono a casa, il telefono pubblico, prende cioè a casa, in falegnameria, e mi telefona, Giulio, cosa hai combinato io? Che cosa ho combinato io? Non aspetti che glielo dico io, che cosa ha combinato il suo architetto. Io gli ho detto che quei portalampadi, come li voleva lui, non andavano bene. La lampadina doveva essere distanziata dal legno minimo un centimetro, perché quando accende la lampadina diventa una stufa e brucia il legno. Ma davvero, sì davvero, glielo dica all'architetto che non ha capito l'accidente di quello che gli ho detto. E così è stato. Beh, gli ho rifatto di nuovo i portalampadi, chiamiamoli così, nuovi, tutti quanti, perché tanto andava tutta sera si era bruciando di tutto, o Tony. Ma dite no, questi tecnici così alle volte sono convinti che con la laurea che hanno, uno mette il bambino che deve rimane, che siano superiore agli operai, capito Tony? Riprendi, scusate gli altri. Vabbè, ma allora io quello che hai detto tu Giulio, io sinceramente se sono stato io potuto ho detto no, io non glielo faccio, perché so già le conseguenze, mi è già capitato a me che un altro professore mi ha detto di fare una cosa, ho detto no, io non glielo faccio. Lei può chiamare chi vuole, se lo chiamo il mio ingegnere e gli faccio dire che ho ragione io. Io responsabilità non me ne prendo, se lo fa fare da un altro, perché non gliene faccio. Io lo faccio come dico io, se a lei non gli va bene, io non gliene faccio. Io sono fatto così, sono pensato, perché so le conseguenze e poi la colpa è mia. No, dice ma tu gliel'hai fatto lo stesso, quindi assolutamente. E purtroppo ce ne sono persone ignoranti, dai, penso di sapere tante cose che poi gira. Lui ha studiato, ci avevo laureato e poi dice l'operaio è zero, perché è così, e allora lasciamo perdere. Avanti Claudio, a Claudio, avanti Gianni. E queste cose le fanno anche i principali, non solo che pensano di sapere, fai così, fai cos'ha. Io una volta ti parlo di una cosa un po' grezza, no? Cioè, avevamo questo furgone che era un Ford di quelli, un Ford Transit, che aveva lo sportello di dietro che si apriva e io per non aprirsi, perché dovevo fare la salita da Via Teresacchi dove c'era un magazzino, c'era una salita lunga e dovevi salire col furgone carico, e praticamente io mettevo un legno che costava tra il, come si chiama, lo sportellone e il parafango, il paraurto. Beh, fatto sta che un giorno carico e comincia a avere il direttore, dai Gianni muoviti, parti, sto cercando il legno un attimino, parti, ti ho detto di partire, cazzo, prendo io sono rispettoso, sono partito, come ho fatto la salita, si è fatto lo sportello e fatto tutta la roba, noi adesso avanti che purtroppo. Guarda, ce ne sono di tutti i colori già, le persone le trovi tante che sono strane poi tra l'altro. Allora di Pia invece a Sassari, vi grazierete su su, questa qua aveva il vizio d'inverno di attaccarsi la zuffa a quella Urio, 2000 watt, ed è partito il manetto termico, sono andato a cambiarglielo, è ripartito per la seconda volta, il giovane dice, ma come mai è andato? Qua dice, fate, allora glielo ho spiegato, allora lascialo così, non cambiarlo più, ok. Ci vado in una scuola a fare altri lavori, mi fa, ma insomma questa la corrente qua l'ha presa, ma la giusta, dice, ha detto no, ma, e io faccio la domanda e la faccio fare lo stesso, e da non gliene fanno, ma non si preoccupi. Quando sta questa qua, insomma, fa la domanda dopo una settimana, e ci rimando io, e gli ho detto, forse lì non ha capito ancora, che la scuola questa qua ce l'ho io, e quando arriva la domanda a me, io gliela bucio, perché lei non può toccare una stufa, lei c'ho freddo, e ora si vesta, cosa vuol dire? Si mette un cappotto, cosa vuol dire? E il riscaldamento c'è nella scuola, se lei c'ho freddo sono altri paio di maneggi. Quindi, niente, incavolata, lei voleva tutti i corsi, e poi mi ha detto, quanto si aspetta, come te l'ha fatto l'acido, e poi la mattina mangio un bel di yogurt, te lo ufficio, e c'è la miglia luce. Se non vizio di attaccarsi alla stufetta, se mi diceva attaccare una macchietta di caffè, l'aveva che fatto, mettere insomma niente, ma il vizio di attaccarsi sotto le cusce, queste zuppe così grandi, ad olio che consumano un casino, l'impianto non ce la faceva, era vecchio, e che cavolo, saltava tutto, ah, una sera insomma. Claudio, sei rientrato? Boh, li prendi giù. Ce ne sono tante di queste persone, sono convinti che in un appartamento, Tony, quando ci sono le varie prese, eccetera, o in qualsiasi ufficio, eccetera, possono attaccare le stufe che vogliono. No, ogni presa ha il suo tipo di lavoro. Se quella presa è stata fatta con una sezione di filo inferiore a quello che è dovuto per reggere un carico, è chiaro che ti si brucia tutto, a parte il fatto che diventa una resistenza e consuma due volte, sia la stufa che il capo stesso, perché diventa una resistenza, oltre al fatto che brucia anche il frutto, brucia tutto, brucia, ma che così, succede così, è purtroppo così. Un'altra te la racconto, era un giovanotto ancora, io appena uscito dalla scuola, allora facevo l'elettricista, e sono andato in un cantiere, allora si faceva il filo di terra, veniva collegato alle travi della fondazione della casa o delle fondamenta, come te le vuoi chiamare, no, è tutta la gabbia sotto i muri perimetrali del palazzo, Tony. Allora si usava fare così per fare il filo di massa terra. Beh, e c'era questo ingegnere, c'era con il carpentiere, da un angolo all'altro misurando con decametro, e non riuscivano a stabilire il punto di squadra di questa costruzione che doveva iniziare. E c'era il carpentiere, perché il carpentiere doveva cominciare a fare le gabbie, a fare le gettate, no? E erano in tutto il manzano, gira, io ero appena uscito da scuola, o Tony, dunque era anche una materia mia, tutto sommato, se vogliamo, no? Quello che stavo studiando. E a un certo momento, ma ve lo dico, però non mi permettevo, sai, l'ingegnere, quello lì, capita, sicuramente ne sa più di me. No, adesso mi permetto, adesso non mi permetto. Prendo di coraggio, ho detto, beh, al massimo cosa mi fa? Sono un giovanotto, sono un ragazzo, non mi può dire niente a me. Ho detto, ingegnere, ma non ho ancora trovato la quadratura di queste mura, come vanno costruite, eccetera. Ho fatto, no, c'è una difficoltà. Ingegnere, è il teorema di Pitagora. Per dire, vedo un gabbo rosso che sono, perché non riesco a trovare la quadratura, quando bastava fare un calcolo matematico e trovavo esattamente alla perfezione, al millesimo, tutta la quadratura, anche misurando col decametro. C'è tutto, e lui era tutto un manzano da un punto all'altro, da angolo a angolo, e non è la squadra così, riprova così, la riduciamo così, facciamo là, tutto un manzano. Ecco, teorema di Pitagora. scusa, un ciaffo a fronte, come ti dici, gabba che sono condonto, Tony, se prendi. Gabba, purtroppo, i calcoli purtroppo giù bisogna fare per forza, perché se ho un palazzo grande, ho l'ingresso dove sono i contatori di un po' di stanze, allora devo fare il calcolo, cosa metto il capo da 6, e da 6 vorrei anche la via e il piede, che sarebbe la terra, il giallo verde, fino ad arrivare, diciamo, alla scala di arrivazione, e poi da lì parto a quelli da 2,5 per gli impianti degli appartamenti. Il calcolo bisogna fare 1,5 per le lampadine interruttori. Allora, addirittura, sono andato a correggere lo scientifico, perché si è incendiato due ciabatte a una segretaria. Sono andato lì e ho detto, guarda, io le odio queste ciabatte, non le metta più, perché se lì smuccia il filo della ciabatta, è 0,5, neanche da 1,5, ma stiamo scherzando, con tutta la roba che è attaccata lì, computer e via dicendo. Quindi adesso gli do un consiglio, però io glielo dico qua e poi me lo leggo. Si ordini dei cartelletti in terra con 8, 10, 12, 15, 16 apprese, e io vengo e glielo faccio. Tanto è vero, ho guardato tutto quello che ci voleva e me lo sono segnato a me. Mi chiama il giorno e dice, e me cos'è incluso, così ho spiegato il fatto, dice, cosa dici, mettiamo dei cancelletti, sì, a me non c'è meglio, devi avviso il lavoro, sì, ce ne vogliono un paio, e più una canaletta calpestabile. Quindi, io ho fatto il lavoro, alla fine è rimasto così contenta Giulio, mi ha ringraziato, non mi ha ringraziato, mi ha invitato del caffè, ok, grazie. E dice, ma le ciabatte, io quando vado nelle scuole, vedo le ciabatte, no, me le tocca, se oggi sono già tornato io e gli ho venuto via. Sono pericolose, la gente ancora non ha capito. Non puoi caricare tu tanto su una ciabatta, 4, 5, 6 imprese, e poi metti tanto di quel carico che si scioglie. E la gente purtroppo non lo sa e continua a fare gli sbagli. Perfettamente così, perché a parte il fatto che il modo come sono costruite quelle ciabatte, anche quelle che costano 25 euro, 30 euro l'una, che sembrano belle ciabatte, ma ci sono uno schifo. Io me ne sono molto costruite da me le ciabatte, ho comprato le scatole portafrutto, ho comprato quelle grigie, a sei posti, e mi sono comprate le prese normalissime, quelle che si usano per gli impianti, e me lo sono autocostruito io la ciabatta, tu al computer, al baracchino, dappertutto nella televisione, io la ciabatta autocostruita da me, non questa mondezza che vendono soprattutto nei supermercati, eccetera, eccetera, eccetera, che fanno di schifo, che se tu li apri dentro, non so se li hai mai aperti, sono con queste lamelle, e lo sappiamo che le lamelle fanno e non fanno contatto, c'è o non c'è il contatto. Cosa succede? Se quando non c'è contatto, che perlomeno che è così il sommario, per così dire, il contatto, forse forma l'arco, si forma, no? Quella specie di lucetta, no? E a forza di formarsi, quando si brucia il contatto ed è tra le lampade, non c'è altra cosa, a parte il fatto che scada, perché il filo è sottile, da 1,5 è il filo di alimentazione che mettono, mentre invece il minimo dovrebbe essere almeno da 2,5, da 2 mm e mezzo quadri dovrebbe essere il filo per poter reggere un certo carico, così puoi attaccare anche una stufa volendo, ma se tu puoi me attacchi 10 di stufa sulla stessa ciabatta, è chiaro che non va bene, è ovvio, perché devi fare conto anche con l'impianto, con la sessione del capo delle prese che sono state utilizzate, tutte queste cose, a parte il fatto che le prese si dovrebbero usare sempre quelle bipasso a 16 ampere, no, intanto che è meglio, e mai utilizzare quelle a 10 ampere, perché io la Bologna, anzi prima erano 6 ampere, adesso a 10, purtroppo è così, ma comunque, ormai queste sono cose risapute, ma tanta gente, prendi mia nipote, per mia nipote sono incendiata la casa proprio perché c'erano le doppie prese, tipo fila tripla, eccetera, attaccata alla presa, o c'era il frigorifero, altre cose, attaccate si è incendiata la casa, dovuto farsi dare la casa nuova, perché gli si è incendiata tutta, avanti Gianni. E anche un'amica mia l'altro giorno è uscita a portare il cane, gli hanno telefonato di andare che la casa si era incendiata. Praticamente ha preso fuoco proprio quello che ti dovrebbe salvare, salvavita. Sì, già, salvavita interviene, certo che interviene. Intanto bisogna vedere quanto è regolato il salvavita, no? Perché se è regolato troppo alto non salta nemmeno, per cui fin quando non si è acceso tutto. Allora sì, però sono cose assurde, non si possono, la presa deve essere la spina e la presa, boh, non ci devono essere altre spine, tripla, ma puniti due, tre spine sulla stessa presa, no, se vuoi che sono una bucaria, e poi c'è scritto 1500 watt in regolo, e invece in realtà non reggono l'accidente. Vai Tony. Rientrò e K. E beh, in effetti sì, proprio cioè, il solito differenziale già sa, con un di 0,03, quindi è l'unica cosa che scatta subito. Poi c'è questo, il salvavita bisogna sempre controllarlo, una volta al mese, una volta al mese e mezzo, schiacciare il test che fa il cortocircuito, scatta e poi lo riarmi. Se invece non lo fai mai, io devo andare a scuola e toccavo, questo non funziona, questo non funziona, questo non funziona, io bisogna cambiarlo, perché se non lo fai, dimmi la cosa non fatta più, tu rimani fulminato e muori, ce l'ho capito. La 220, ricordatevelo, voi vi rimanete attaccati e morite perché ha una frequenza, mentre la 380 non ce l'ha e quindi ti sbatte, ti fa male, per oggi ripeto non muori, invece la 220 ti attira, passata che non è altro. Ok, dai, comunque continuate voi, mi devo sposare un attimino. E se non vado errato ne è stato Claudio, riprendi qua. Capo del Rogero, infatti l'elettricista nostro c'era sempre quello, fatemi tanto reset e salvavita, abbassate il magneti termici, fate dei sollevateli ogni tanto, non lasciateli sempre così, questo ce lo diceva sempre l'elettricista responsabile elettrico, perché dice che era una forma di sicurezza anche nei nostri confronti. Perché dentro c'ha delle lamelle, quando tu gli tocchi il tester, praticamente stai causando cortocircuito e quindi fa la scintilla, le lamelle si puliscono, se invece non glielo fai si forma la patina e quindi non funziona più, ecco perché vuole fatto il tester una volta al mese o molto al mese e mezzo, se non glielo fai mai un domani vai a freccia e non funziona, è per questo lo devi cambiare, perché se no rimani, a parte che devi comprare un nuovo e secondo me se cioè, ti salvi la vita, perché cioè, no, si chiama salvavita perché un motivo deve funzionare, se non funziona non è più salvavita. Va bene dai, continuate voi, lo proseguo, rimango all'ascolto. E a tu, Marco Rix. Ma sta bene l'aria già. Già, Gianni. Oh. Mi hai detto una mazza. Cosa? Nulla. Ah. Avete dico, già che vedi, mi hai capito. Sì. Quanto era la vita oggi, 9.40? Gianni, mi sciogliere un bravo. Va bene, dai. Purtroppo è così, i controlli bisogna farli, bisogna controllare anche l'efficienza della distrazione a terra, anche quello bisogna fare ogni tanto, così almeno uno rimane più tranquillo. Ed è tanto semplice, anche senza strumento si può fare il controllo della distrazione a terra. Non è che ci vuole molto, basta una pina e un portalampa, una lampadina d'accento. E puoi sapere se l'assorbimento della massa terra è buono o meno. Va bene, dai, avanti, Gianni, riprendi. Ehi, questo qua è il 3009, dai, stavo provando e non mi ero accorto che c'era attaccato la Gigio, dai. Il 3009 con 3 watt e mezzo, adesso tranquillo, dai. No, già una figurazione, c'ho sempre l'occhio sullo smittere, ma poi con 430 io non tenevo mai dato segnale, te l'ho sempre dato col Galaxy, e questo è preciso, arrivi 9.40 quando attacchi con il 3009, 9 più 40, proprio pieno, pieno, pieno, questo è il 430, lo smittere è proprio preciso, preciso, mentre quello del Galaxy sicuramente no. Sei leggermente più basso, sei poco più di 30, quasi 9.40 pieno, per quello mi sono accorto che agiti già fuori mai. Vabbè, perché era su questo apparato qua ed era sicuramente acceso, come acceso quello si accese anche la situazione, poi ha detto che salvavita bisogna controllarli, io l'ho controllato. E quindi hai fatto il controllo, no? Già, va bene, non ti preoccupare. Mi sono accorto da lei, guardavo lo smitter, se no non è secco. Cappa Giulio, è così, no, infatti si incazzava anche l'elettricista nostro, perché addirittura poi il responsabile tecnico, proprio degli impianti, che era l'ingegnere Casti, aveva fatto un ordine di servizio proprio, che settimanalmente andavano controllati, quindi praticamente andavano resettati, riattivati tutti gli impianti ogni settimana, quindi resettati completamente, spenti e riaccesi, con tutta la parte elettrica doveva essere tutto smagnetizzato e riavviato completamente, proprio per la nostra sicurezza, per far sì che tutti i magneti termici, tutti i salvavita, tutte le parti elettriche siano in perfetto uso. L'aveva proprio messo come ordine di servizio e se non lo facevi, non lo riportavi nel libro di conduzione, capito? Si incazzava un bel, ma un bel si incazzava. Oi, buonasera a tutti! Dimmi da tu, io mi chiamo tu. Sì, beh certo qua, ma è una cosa normale che si deve fare. Sì, naturalmente tanta gente magari non ci pensa o si dimentica, che ne so. Ma anche la dispersione a terra è importante fare anche quello. E con un semplice sistema, anche se un pochino bizzarro, però diciamo che è valido, ti fa capire l'efficienza della massa a terra, quanto assorbe e quanto non assorbe. Basta una spina, un portalampadi e una lampadina. Vediamo un po' come. È tanto semplice. Basta prendere una spina e anziché mettere i due contatti laterali, la spina ha anche il filo di terra, no? Metti un filo al contatto normale e l'altro al filo di terra, metti una lampadina d'accento e inserisci la spina nella presa, se si accende la lampadina vuol dire che il contatto di dispersione è ultimo. Questo naturalmente non è il massimo del controllo, però diciamo che è già qualcosa che ti concede, che permette di capire l'efficienza della varietà della massa terra. Avanti Gianni. È una ottima massa terra. Filo di massa è la fase, è accende la lampadina. Se non accende non è ottima massa. È quello che sto dicendo io, no? È quello che sto dicendo, una spina, un portalampada e una lampadina da 100 di un certo battaggio possibilmente, metti anziché fare la spina normale, usi il filo di terra, cioè il gambo centrale della spina, è più un filo a massa, un filo a cosa, un filo normale. E attacchi la spina e il contatto avviene tra il filo di terra e il contatto normale. Se accende la lampadina, se si illumina bene, la massa a terra è efficientissima. Tutto lì, quello che stavo tirando, Tony. Sì, ti ho ascoltato. È giusto così. Io ho passato l'esame di elettricità, no Marino? Quando si facevano i collegamenti come si deve, in centinaia di fili, oggi invece vedo tutti gli utilizzatori, deve fare un'invertita, c'è l'invertitore, mette il pulsante in parallelo, sempre vai avanti e accendi e spegni da mille posti, e così per qualsiasi tipo di impianto. Adesso prima si collegava tutto, prima dovevi sapere collegare, se no non funzionavano, la commutata, la deviata, l'invertita, tutto, il punto semplice, tutto quanto. Io sono a quei livelli, io sono rimasto a quei livelli. Gli impianti moderni, lo so che esiste tutto, ma no, io non ne ho bisogno, perché io i collegamenti li so fare in qualsiasi maniera, anche come si facevano prima, senza l'ausilio e l'aiuto degli utilizzatori di oggi, io, Tony. Esatto, con la 380 puoi fare anche tre linee 220. Basta usare un neutro e una fase, un neutro, la fase per fase e utili tre linee da 220, dalla 380. Certamente sì, e nei laboratori quando fai gli impianti utilizzi per dire una presa, due prese, tre prese con una fase, ci sono altre prese, e utilizzi l'altra fase e così via, va distribuito, così il carico non è tutto su una fase, e così via, ma è chiaro, queste sono esperienze da professionista, da uno che ha fatto, che ha esercitato il mestiere, se uno poi non l'ha saputo fare, non l'ha fatto, perché vuol dire non ha imparato troppo quello, o perlomeno quello che si doveva imparare. Avanti, Claudio. Ecco perché volevo sempre l'elettricista con questo spezzone, un cavo e una lampadina attaccata, serviva per quello. Allora tu prendi una spina, un pezzo di filo, 20 cm di filo e un portalampade normalissimo e una lampadina da 100 watt, possibilmente da 100 watt. Cosa fai? Attacchi il filo alla portalampade, attacchi la spina, però la spina ha tre contatti, no? Uno centrale e due esterni laterali, no? Uno a destra e uno a sinistra, va bene? Tu sinistra e usi il contatto centrale più uno normale, lo usi. Quando attacchi hai messo un contatto al filo di terra, quando tu inserisci la pinna nella presa hai messo un contatto al filo di terra e uno all'impianto. Se la lampadina si accende bene, bene, vuol dire che il filo di conduzione a terra è perfetto. Mi sono tirato? Alla grande, no, io non capivo perché questa elettricità va sempre appresso questa cosa così, capite? Non capivo, adesso ho capito cosa serviva. Va bene, ottimo per la truppa, vai già. Già ne c'è spostato, allora praticamente sta eliminando, la lampadina accende con fase neutro, sta eliminando il neutro e usi soltanto la fase e anche se neutro usi il giallo verde della terra, quello centrale praticamente, e accende la lampadina. Quella è un'ultima massa a terra. Poi per dividere il carico è facilissimo. Se hai tanto solito differenziale, magnetotermici, ci sono tanti cavi attaccati sotto in uscita e ogni tanto uno ce la fa, con la pinza perometrica controlli dove c'è la fase in uscita, avere qui il carico te lo dà quanti ampere sta consumando. Quindi automaticamente da uno all'altro poi ti dividi il carico. Qua ce ne sono troppe, ci do troppo, da qua lo metto qua e si divide così. Dai, non è così difficile poi l'impianto elettrico. Oggi è anche agevolato, tutti i vestiti veramente sono stati agevolati con tutto quello che oggi si inventa. Prima dice io devo accendere questa stanza e quando esco devo spegnere dall'uscita di questa stanza senza tornare indietro per spegnere e uscire al buio. Allora cosa si faceva? Si faceva la deviata, si faceva in poche parole tre fili per ogni deviatore, o meglio chiamano interruttore, per chi non è del mestiere lo chiama interruttore, però in realtà è un deviatore. Cos'è un deviatore? È un interruttore a tre contatti, uno polo comune e due ponticellanti, a differenza dell'interruttore normale che ha solo due contatti. Allora, oggi si può fare l'impianto anche con due fili nell'interruttore, però anziché usare l'interruttore devi usare un pulsante da campanello, però devi mettere, e tu da quei interruttori lì metti 1000 pulsanti, tutti sempre uno dietro l'altro, sempre in parallelo, e accendi e spegni la luce da 1000 posti. Mi sono spiegato qua? Ti sei spiegato sì, capito ti ho adesso. Ripeto, io so fare solo quelle due cazzate, ma non lo vedete l'impianto intero perché io non sono capace, assolutamente. Ognuno, ripeto, sarte giua, KK. Gianni, ci sei, se no riprendi tutto lì. Ehi, allora, io ho parlato qua il polo positivo e il polo negativo, e mi basta l'uscita. Ottimo Gianni, e sono uguale a te io, E poi se volete farlo invertita non c'è problema, due deviatori e un altro interruttore invertita, poi un'altra ancora, quanto ne volete, è una pesceria. Questo per le luci delle scale, cioè in un impianto di un palazzo, dove ci sono 3, 4, 5, 6, 10 piani, due deviatori, uno all'inizio e uno all'ultimo piano, uno all'ingresso, da portone, no? E uno all'ultimo piano, e tutti gli altri piano per piano l'invertitore, che è un interruttore a quattro contatti, che vanno ponticellati fra l'uno e l'altro, e poi tutti quanti utilizzati per accendere e spegnere da qualsiasi piano quando vuoi. A parte il discorso che oggi ci sono anche i regolatori di accensione, tu ti metti il regolatore, accendi e poi sali fino al quinto piano e si spegne da solo, però prima non esistevano queste cose qua e si facevano i collegamenti tramite collegamenti elettrici veri e propri fatti dall'uomo. Invece oggi no, oggi esiste tutto, oggi è una pesseria, c'è una pesseria, non è proprio una pesseria, diciamo che c'è una grande agevolazione anche per l'operaio. Avanti Tony. E capa poi dei portoni, lo sappiamo benissimo, quando tu accendi la luce arrivi a casa tua, poi dopo si spegne. Là c'è un temporizzatore, che è una cazzata attaccare anche quello, lo puoi regolare, un minuto, mezzo minuto, un minuto e mezzo, due minuti, capito? tutto qua. Mi sei, scusa già, stavi dicendo, Aedo Ciammatte, ma tutto questo, questa diciamo corrente che stai consumando, diciamo, motivato non ne hai a disposizione per cui cambiare. Se vuoi farti una ciammatta come si deve, ripeto, o ti fai un mobiletto con tante prese in castro, quella quell'altro con un cavo da 2,5 e sei sicuro che non si incide a niente. Perché io ho due ciabatte, ci avrò penso 12 prese attaccate e un po' di tutto, capito? Perché io ho apparecchi che vanno a 220, cioè vanno anche a 12, per dire poco fa il Royce lo stavo usando a 12 volts, ma va anche a 220, capito? Lo posso attaccare come voglio. E così anche altri apparecchi che ho, tipo Mintec 492, quello lì lo stesso va a 220, a 12, poi c'è alimentatori attaccati, delle prese delle luci, eccetera. E vale, guarda, allora io ho una ciabatta, ma io l'ho messa perché, ripeto, ho tutto spento, solo questo qua che sta funzionando, è l'alimentatore piccolino. Oh, se voglio accendere tutto, giustamente la ciabatta non la faccio più funzionare, se io ho intenzione di essere tutto illuminato, allora so che c'è un po' di consumo in più, se non si surscaldare il cavo, che è un 0,05 della ciabatta, quindi cosa faccio? Mi autocostruisco io una signora tipo ciabatta, come si deve, un quadretto con tante prese, e ci metto il cavo da 2,5, un cavo poi in uscita butirico, doppio isolamento da 2,5 e ci metto una presa 6 ampere e mi farò diciamo una signora ciabatta con le palle quadrate. Fermarsi la stazione in cui vorrei attaccare tutte queste prese con tempo dovresti fare anche tu, se ti piace vedere tutto illuminato. Se vuoi invece accendi uno e spegni l'altro e non c'hai tutto questo consumo qua, quindi non devi preoccuparti. No, infatti tu, io se attacco il baracchino, c'è attaccato il baracchino, la me fate entrambi con quella portante. Non è che siano chissà che cosa. E capo, chi voleva tradire qualcosa sotto che non passava? Me fate entrare, vi metto l'importante, vi metto. Sapisci cosa ci fai? Ciao a tu, bombolozzo. Capo, vi metto l'importante, vi faccio schiatta. Scusa tu, sinceramente ce l'avamo dimenticato, prese dal discorso, veramente, guarda. Scusa tu. Va bene, dai, tentate, facciamo entrare subito, ecco lì, parli, per un quarto d'ora noi ti ascoltiamo ben volentieri. Sì, ma è così, Gianni, fai come ho fatto io. Io sono andato, ho comprato una scatola porta moduli, i moduli sarebbero le prese, no? Che ce ne stanno 6. Io mi sono fatto le ciabatte, me le sono fatte così. Mi ho messo intanto l'interruttore, mi sono messo più 5 prese per ogni ciabatta, e ho utilizzato le prese che si usano nell'impianto elettrico delle case, e me la sono autocostruita. Esteticamente forse non è bella quanto la ciabatta che tu vai a comprare ai supermercati, eccetera, ma lì si quasi nella vigna del vogo, o Gianni, lascia perdere quelle ciabatte, non ti fidare troppo, soprattutto quando non sei a casa, è pericolosissimo. Costruisci le ciabatte, se non le sai fare, mi compri il materiale e te lo costruisco io, ma sei sicuro veramente con quello, perché come attaccare la spina presa al muro, capito Gianni? Si intendeva Tonino, non so se avevi capito bene. Sì, ho capito come, dai. Ma io diciamo che non attacco tutto insieme, a parte, vabbè, quando c'è il baracchino che attacco anche l'aiutino, allora sì, che assorbe un po', però normalmente io esco con 3 watt e mezzo, un alimentatore, un rosmetto watt, metto, non c'ho niente di attaccato, ci sono giusto le luci del rosmetto watt, metto, l'alimentatore oltre il baracchino, non è che ci sia molta roba, solo che io ci ho tutte attaccate per l'avere a portata di mano quando devo usarlo. Ti ho capito Gianni, io ti ho capito, però devi pensare che anche quando è tutto staccato, se c'è un qualcosa che va un minimo di contatto, la ciabatta fa arco, facendo arco si brucia e si possono riscaldare i fili prendono fuoco e ti può creare dei problemi seri, veramente seri. Va bene, facciamo entrare Antonio, dai, se no ha ragione Antonio, avanti Antonio, parla un quarto d'ora e ti ascoltiamo ben volentieri, vai. Capra, e intanto guarda, non c'era problema perché vi stavo ascoltando, stavo scherzando poco fa, non c'era problema ma perché stavo mettendo a posto sottile. KK, soia, ma sempre liquido? No, quello portante come va? A gas. A gas, sì sì, ho capito. Vabbè, già è scivolato Mattesi. Complimenti, sì. Ottimo, tu mi dai una goccia. E poi giù ci sono gli adattatori per le prese, per mettere una scatola anche di rivazione, tu puoi autocostruire, mettete una baradina, si è a posto, capito? Quindi, noi non facciamo lezione di elettricità, sino qua in che ti chiude davvero giù. Adesso domani tutti elettricisti, tanto la lezione l'avete già fatta. Oh, io c'ho il quadro fatto da Mario Artemalle, ovvero i figli di Mario Artemalle. Un quadro da 30x30 con 6 sotto di quelle industriali, cioè quelle rotonde, attacco rotondo, tutte in fila 6 e 6, e attacco piccolo, attacco grande in alto. Al lato c'è il salvavita che chiude e boh, io sollevo il salvavita e si attende tutto. Un'eternità, questo l'ho fatto quando il fulmine mi aveva bruciato tutto l'impianto elettrico di questa stanza e comprese anche le radio. E quindi mi sono rotto le palle e ho fatto una cosa del genere. Fatto eternamente, state attenti alle ciabatte, perché le ciabatte se non sono del latticino, se non sono ciabatte buone e sono quelle comprate ai supermercati, fanno danno. Se non vado errato, devono essere marcate QM. Così era Giulio, se non vado errato. Il QM, c'è la sigla stampata su ogni presa, c'è la sigla, su ogni sfida, ci deve essere scritto IQM, è un cerchietto, al centro c'è la M e una I. Dunque IQM, quelli sono quelli originali, sono quelli legalizzati, diciamo, per così dire. Però io quando devo comprare materiali elettrici di un certo calibro lo mando sempre alla ERCO, non ando direttamente a Rigoso, perché alla ERCO ci sono materiali ottimi veramente, no, non c'è problema, costano un po' di più, indubbiamente, però alla ERCO ti danno materiali di qualità, no, non mondezza. Soprattutto i cavi, perché esistono i cavi antifiamma, mentre invece se vai in certi posti, tipo che so io Bricco, mi è dato per fare un nome così a caso, ti possono capitare dei cavi che si incendiano, invece no, ci vuole anche negli impianti il cavo antifiamma. Avanti Tony. Cavo ignifugo. Esatto. Hai visto che Tonino è concorde con me, io sono concorde con lui. Bene, bene, bene. Avanti Gianni. Comunque Gianni, se ti interessa, compra quello che occorre e la ciabatta te la costruisco io, se non la sai fare tu. Se no ti mando lo schema e te la fai anche da solo. E non c'è problema. Ok, vai già. Non c'è problema. Cava, cava. Adesso che abbiamo attenzione sulla pulce nell'orecchio, resta con tutto, quando esco resta con la presa, così almeno non c'è modo di incendiarsi. Oh Gianni, fai così, e anche tu mia tu fai lo stesso, staccati che la bomba. No, io non ho problemi. Giù, come si chiama il figlio di Mario, il grande? Tullio Artemalle. Tullio me l'ha fatto a me, Tullio. Ma ha fatto bene, fatto bene, ma adesso non serve a niente, perché infatti volevo staccare dal muro, staccare tutto e portarlo via, e l'avevo fatto fare perché c'avevo un mare di radio, le accendevo tutte e quindi avevo paura di fare danno, ma adesso ce n'è una sola praticamente, quindi no, non è che serve molto. Vai Antu. Kappa, mi aveva mandato una foto bella a me. Il nostro elettricista si chiamava Cabizza, lo conoscete? Cabizza? Che con una pizza? Chi se si cocca con i botti si rimette la cuccia, no? Chi c'era con la duzza? No, oh, chi c'è con la duzza? Chi c'è con la duzza? Eia. No, Giulio è bravo, Giulio. Giulio Artemalle è bravissimo, Tu che ha preso al padre, Lo so, guarda che alla mia età stesso mi studio, non è bambino, no. Già lo so, sì, chi è uscito dalla sotto le grinfie di Maldio Artemalle è sicuramente un bravissimo operaio, non ci sono dubbi, come tanti altri centri, nel senso che sono usciti ad esempio da Secchi a Maseggio, da Panacore, da Carlo, da Sodini, Sodini un po' meno, però lui diciamo personalmente era bravo. Conosciuti tu quelli elettricisti o Tonini, quei nomi che ho fatto, Secchi e Maseggio, prima erano in società, poi si sono separati, è rimasto Secchi da una parte e Maseggio dall'altra, Vanacore, quello è ancora noto ancora oggi, Sodini, Carlo, li hai conosciuti quelli o Tonini? KK, Vanacore sì, una voglia, l'altro nome no, però Vanacore sì. Beh, Vanacore aveva anche il deposito, dove c'è lì come adesso sono vaderrato Giulio. Esattamente, lì era, sì, sì, ma prima non era lì, prima era lì in via, che via è quello, Velutati mi sembra che si chiama quella via di Bo, se ricordo bene. Mentre Secchi, sai dove era Secchi? Dov'è il negozio di all'angolo di via di Piazza Toro al corso, che cosa è? Zara mi sembra che si chiama quel negozio. Di fronte c'era Secchi e Maseggio, c'era il negozio di elettricità, Secchi e Maseggio, schiera di operai, uno più bravo dell'altro, tutta gente come se, anche Gasperini era lo stesso discreto come elettricista, il padre però, non tanto il figliolo quanto il padre. Il figlio era più bravo come motorista, facendo avvolgimenti motori. Cos'è conosciuti quelli tutto lì? Scappa che quello, ma Gasperini aveva il negozio di Via Rosello mio, o giù? Gasperini Via Rosello, lo so, ho detto, Secchi e Maseggio aveva il negozio di fronte a Zara, al corso, che adesso mi sembra che ci sia una specie di, non so cosa è, tabacchino, cosa c'è, non lo so. Comunque, no, un coso di telefoni, di telefonia cellulare mi sembra che ci sia. Di fronte, proprio di fronte a Zara. E poi, dove c'è il negozio di Zara? Una volta c'era Silvetti, c'era il vetraio, ma adesso va a vedere il grande obiettivo, non è oggi, certamente tu non l'hai potuto conoscere. Avanti Tony. Io mi ricordo che via Cesare Battisti, all'inizio, dove c'è la banca, il credito italiano, io ero piccolino, mi ricordo che lì c'era un ferramenta che aveva il bancone antico legno grande grande, giusto? C'era Rosa, c'era, non per dove c'è la banca, un po' più là della banca, dai, a metà di via Cesare Battisti, diciamo, c'era Rosa, c'era, i cugini di Rosa che ancora esiste, c'era Rosa, c'era fratello e sorella, che attendeva nella luce quando entrava il cliente, anzi non accendevano nemmeno, siccome loro erano poco vedenti, ci vedevano poco, ed era quasi sempre al buio, ma era un coso, era un gettito, era, mi pareva Marcello, veramente a Marcello mi pareva visto. Beh, allora io mi ricordo da ragazzo andavo anche a comprare lì ferramenta eccetera. Sì, era Rosa, i cugini di Rosa, quelli rosa esistenti di Beata Castello adesso, eh? Dai, continuate Luca, io adesso devo chiudere veramente che devo preparare la mia cena. Ok, ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Giulio e eventuali ascoltoni. Un caro saluto, a più tardi se ci siete, sino partenza. Ciao ciao. Ciao Tony, ciao, buona carica quando la farai. Vado via anch'io, devo portare giù il cane. Ti saluto tutti cordialmente, ne approfitto. Rilascio tutto a Giulio e poi farà girare avanti. Sì, ok, anche nel frattempo che basta la chiamata anche per me per la cena, eh? Ciao Tonino, ciao Gianni, grazie per la chiacchierata Tonino, è stato un piacere, abbiamo parlato di qualcosa di importante, non dei soliti controlli, quanto si sta bene, ascolta qua la radio, quanto si sta levando, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo fatto un QSO come si deve. Ciao Claudio, salutoni, ci sentiamo domani eventualmente. Ciao Gianni, ciao Antonio, chiudo anch'io per l'ascolto finalino, poi chiudo perché mi hanno chiamato proprio in questo momento per la cena. Avanti Claudio. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Tonino, buona serata, buon fine domenica, buon tutto e alle prossime. Avanti Anto. Ciao a tutti in generale, almeno do un saluto generale a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao di nuovo a tutti e grazie per il questione, per la compagnia. Ok, ciao ciao. Grazie a te dell'info e grazie a te e a Giulio di quello che appunto avete spiegato e detto molto bene. Ce ne faremo una cultura. Avanti a tutti. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao ciao a tutti in generale. Beh, questo. stasera o stasera? Beh, quando si parla di un qualcosa che può essere utile un po' per tutti, e c'è chi di competenza può sviluppare un quesito del genere, fa sempre piacere, no? Io ti ripeto, no, ma sono stato attento e zitto perché non è di mia competenza parlare di elettricità e quindi ascolto e metto in cuccetto. Sono sempre cose che fa piacere ascoltare, capire e sapere, può servire insomma per fare qualsiasi tipo di lavoro. Ok, quindi Denise è andato a Mario, già visto le foto molto bene. Dimmi piuttosto se anche da te tutto a posto, sto usando 4.30 che era un pochino fermo, tutto ok? Tutto ok, una cannonata, Ocra. Ti stavo dicendo, sì, sono andato al mare, hai visto che l'ho preso, mi è arrivato ieri, ma l'ho portato, nuovo, ho preso il barbecue, ho preso. Sai quanto è comodo quello lì, lo porto dove voglio, portatile con la tracolla e via. Bello Antonio, a te che piace andare così a fare queste escursioni, è molto bello, sì, bello è sicuramente anche pulito, ordinato, perché c'è la sua custodia, c'è la sua sacca, già va bene. Bene, bene, bene. Ma e cosa sei molto sopra? Cos'era Ghiscio? Quello che abbiamo mangiato noi? Oh, chi ci sono le cose, so. Ma quanti si chiamano? Quelli, gli sottichini, no? I sottichini, no? Come si chiamano, sa? E poi ho fatto anche la pancetta, ho fatto il salsiccione, un po' di tutto che ho fatto. Una bomboletta ho consumato, perché sono di quelle lunghe. Gli spiedini. Spiedini, ero sempre chiaro, buoni. Buoni, a me mi è rimasta impressa sempre quella salsiccia che mi avevi dato. Quella veramente buona Rosto, veramente buona. Sono andato l'altro giorno tu a prenderla lì dalla casura, ma minchia, c'era la fila, aspetta, c'era la fila sino a fuori, allora ci ho rinunciato. Però già mi bongo in fila la prossima volta, me la frutti nuda, me la prendo un paio di chili, me la metto in freezer. Buona veramente quella salsiccia Rosto. Cappa, sai cosa devi fare, cra? Prendi il numero di telefono, tu li chiami, vabbè, guardi cosa ti serve e poi tu entri, ti pigli la roba e ti nande. Ah, posso fare così? Ce l'ho il numero di telefono. L'ho preso il bigliettino l'altra volta. Ah, posso fare così, gliela ordino, dico, me la prepara, passo per dire a mezzogiorno a prenderla. Pago e me ne vado, entro, pago e me ne vado. Cappa, lo dici a chi c'è che deve solo ritirare, entri un attimino e te la biglietti in tante. Ottimo, molto grazie. No, perché qua sono andato oggi domenica, sono andato venerdì, a qua faccio un po' di carico di carne. Soprattutto quel salsiccione, quella salsiccia rossa che mi hai detto tu, è favolosa, mi è piaciuta tantissimo, anche quella che tu hai portato a casa già cotta, è favolosa veramente, che sto rompe l'aria anche una volta. E quindi sono andato a prendere proprio per portarla adesso, per dire a Pasqua, no? In campagna, a rostire, ma vero mondo. C'era il mondo, ma ci devo andare per forza, se ho il telefono me la faccio preparare, perché è molto molto buona, veramente, gustosissima. Non è visto che sempre la vita, vero mondo, beh. Devi andare a chizzolo mangiandosi, no! Perché una macelleria che lavora tantissimo, lavora, anche perché preparano molte cose loro, preparano, cioè, come si dice, è tutta roba artigianale, è tutta roba fatta in chive. Sì, no, ma ho visto, ma poi ti ripeto, sia la pancetta, la salsiccia, è veramente, veramente buona, molto, molto buona, quindi ci vado e lunedì ci ripasso, vediamo com'è, della ordine e poi passiamo al ritiro, capito? KK, va bene che va bene, e io oggi sto facendo andare. Dice, dove? Schiacciate la radio, non scalda proprio, quando è fatto tecnicamente. E i watt sono giusti, sto andando con 20 watt è importante, 40 watt, più di quello non va. Va bene così, non si sposta. KK. E dove sei andato tu? A Porta Nuova. Secondo Pedro, almeno quando giovedì di Arrosina c'è l'acqua lì, la vi tutto e via, ma non sta la roba giocciò. Bene, bene, e gente ce n'era? Sì, c'era un mare che una cosa favolosa era. Anche l'aria sono andato a piedi a Porta Nuova, era vabbè fuori a pranzo, è andato, poi se ne sono andato pure a Porta Nuova. E mi ha detto, mi era entrato poco fa, infatti il l'ha portato lì, per quello sono rimasto in radio. E mi ha detto, c'era un bel di gente, un bel, un bel, un bel. Ciao, no, dove eravamo noi era tranquilla la storia. E vabbè, oggi giornata bella, poi adesso la gente ne ha approfittato, ancora siamo in zona arancione, che a Pasqua siamo in zona rubia, poi manda a Lugo. Allora Lugo si rimbombia anche i delinquenti, per carità. E vabbè, ci siamo andati oggi, ci siamo andati e via. Allora siamo stati benissimo, c'era un mare fantastico, c'era. Le cose più belle che abbiamo noi in Sardegna. Lo so, e si conferma come dice quello, va bene che va bene. Ottimo per la gruppa, che ore sono? Le 8.25, va bene, un po'. Però fa buio adesso, mangiare presto non conviene perché ancora c'è luce, quindi verso le 9 si cena. Aspetta. Già sono qua io. Ma c'è il K attaccato? E ci avessi i pazzi sul telefono. Sarà ora. Ascolta tu, ma lì li vedi i picchi di modulazione, sono positivi? Bello casino. 2 secondi dammi, aspetta un attimino. Qua è a fondo scala, non si comprende nulla. Aspetta 2 secondi. Attacca l'altro grande, che mi serve un controllo preciso di queste fesserie, per cui sono sicuro che tutto va bene, se no devo comunicare, perché ancora non l'ho provato bene bene, io glielo sto provando bene sta radio. Sei stabile qua. Cosa ti? Ho detto che sei stabile. Non vado avanti né indietro, strano. Non si muove niente. No, sei stabile. A quanto vedo io. Cosa c'è? Col 450? E allora? Ecco il led del caffè, una rottura di balle. Adesso vediamo se si sposta appena rotto, perché anche a me sullo strumento rimane fermo, non me ne va a picchio. Ecco qua, prova, l'ho attaccato questo. Guarda, a vedere. Positivi. La vera lancetta non è più sensibile, infatti. La lancetta è più sensibile, vabbè, dai, ma è giusto per essere tutto regolato bene, vai. Cappa di Roggio, uiaia. Allora, io ti ascolto anche, sai com'è il DB del 450, anche sotto va in recezione, no? Allora, la portata ce l'hai fissa, due reti piccoli in positivo, ma è leggero. Sì, no, vabbè, che siano in positivo sì, però sul digitale, me lo facevo anche a me, non lo vedi bene il picco di modulazione, capito? Mentre sulla lancetta, sulla analogico te ne accorgi. No, già va bene, va, già regolata bene sta radio. Non l'ho ancora provata bene bene. Gappa gappa. Tu piace gatto c'è la cosa. Ora. Beh, non anda. Scusate. Ehi, ciao Anto, ciao. Ripeto, qua fa anche recezione la scuola del picco, capito? Però tu sei stabile, a 9.30, e il DB di sotto dove c'è scritto LC, se ce l'è presente, e gli altri, quelle quando moduli ti fa anche il picco positivo nella modulazione e anche la ricezione. Scusati che stavo mandando un messaggio, dimmi. Sì, ho detto, non so se ce l'è presente, quel DB che c'è sotto l'LC della radio mia. Sì, della radio tua, sì. Anche quando parli ti dai picchi oltre il segnale. Il segnale come molto alto, normale, solito. Dai, bianco per me, ci sentiamo dopo più tardi, che io devo andare a mangiare, devo andare a fare roba, ok? Ehi, ehi, Anto, va bene. Ehi, ciao, Anto, ciao. Senta, adesso per dire, quando ho detto va bene, ho visto il picco. Gappa, 9:30, io lo dico va bene, ce lo mando 20, 25 watt, quasi 50 modulati, già va bene. Adesso lo vedo il picco, vedi? Già si vede. Già lo vedi. Gappa. Stavo dicendo di quello che ho detto stamattina, ma quando mai non c'hai un base a 220 da mettere dentro là? Invece c'è un chiarimento all'ori. Non è, ma se l'avrei fatto, non è un base. Vabbè. Che amici, a saperlo, io di base mi è rimasto solo il Galaxy Blu, gli altri sono due veicolari, 430 e basta. Questo li ho dati tutti, se no non te l'avrei. Te l'avrei dato volentieri, avevo già quello lì. Perché è l'unica soluzione, ti metti un base 220, 40 canali, non stai lì a romperti le scatole con alimentatori e cose varie, capito? Sì. Vabbè, non ci devo dormire lì, quindi era giusto per quando si faccia uno faceva qualche cosa, ce l'ho per ascolto. Dimmi una cosa, no? Hai un leggero ronzio, tipo ventole, però ventole fastidiose, nel senso che, come te lo posso spiegare, hai un rumore di sottofondo, Rumore di sottofondo? L'alimentatore c'è acceso, il prox. Sì, tipo, capito, giusto per... Ventolina la sento, io lontanata la sento, ma non se ne è mai accorto nessuno. Allora è qualche altro problema. Sei sicuro che il rumore di ventola? Non è una cosa preoccupante. Quando schiacci la portante lo sento. Non è. È come un rumore tipo. Capito? Non so se è il ventola attaccato o meno. Sì, la ventola. Va bene, aspetta, adesso appena ti dico schiaccia solo la portante e te lo faccio sentire, prova. Continua un attimino, cerca, schiaccia la portante un attimino. Non si sentiva mai questa ventola, io la percepisco, perché l'alimentatore è molto lontano. Senti, lascia perdere la televisione, però ascolta appena il messaggio. Aspetti, Cosa qua? Aspetta, lo ascolto, non stavo ascoltando un altro, aspetta. Sì, la ventola dell'alimentatore. Vabbè, forse che ho l'MC60 troppo alto, ce l'ho a due, non lo so, bene va così, come adesso. No, ti dico, cioè non dà fastidio, è che me ne sono accorto, magari era un pochino più alto poc'anzi, non so, era più vicino, non so dirti, e l'ho sentito e ti ho mandato quel passaggio lì, capito? Gappa, però la modulazione adesso va bene, come perché... No, mi ha mandato, l'ho regolato, l'ho abbassato appena, era 2,5, adesso ce l'ha 2, va bene. Sì, va bene, va bene. Ok, così, perché non me lo ricordavo più, il 4.30 non è che l'ho usato molto, c'avevo sempre il 4.40, 4.40 acceso, attaccato. Adesso c'ho solo questa, me la sto regolando bene, così non tocco niente, lascio stare così, capito? Va bene, va bene. Ultima per la truppa. E ci siamo, ci siamo. No, io volevo mettere il Seat là, però anche quello a 12, capito? Ah, Seat, sì, è a 12, sì. È a 12, sì. No, lì bisogna giù la padrino e rifare un base che funzioni bene e lo butti dentro. È l'unica soluzione, va. Peccato, io non ho più, se no. Te l'avrei dato io una bruciarla, intanto erano... erano tutti staccati, vabbè, non so però niente. Ma dai, qua, facciamo un po' di melana qua, dobbiamo andare a venire con Rick, poi già dentro. Eia, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ciao, buona cena a te. Eia, d'accordo, ciao, ciao dopo.